25. Quando il figlio maggiore fu andato via, Wang Lung sentì la casa purificata da un eccesso di agitazione e per lui fu un sollievo. Si disse che per il giovane era una buona cosa essersene andato, mentre lui adesso avrebbe potuto badare agli altri figli e vedere com'erano, perché a causa dei suoi problemi e della necessità di seminare la terra e raccoglierne il frutto nella stagione giusta, con qualsiasi cosa potesse succedere altrove, non sapeva quasi niente dei figli venuti dopo il maggiore. Decise inoltre di ritirare presto il secondo dalla scuola e di fargli imparare un mestiere, senza aspettare che la forza selvaggia della sua giovane virilità se ne impossessasse, facendone una piaga in casa come era stato per il grande. Il secondo figlio di Wang Lung era diversissimo dal maggiore, tanto quanto possono esserlo due figli in una casa. Mentre il grande era alto, con l'ossatura larga e la faccia rossa come gli uomini del nord e come sua madre, il secondo era basso e smilzo e di carnagione gialla, e in lui c'era qualcosa che a Wang Lung ricordava suo padre, lo sguardo furbo, affilato, ironico e al momento giusto un'inclinazione alla malizia. E Wang Lung disse: «Questo ragazzo diventerà un buon mercante. Voglio ritirarlo dalla scuola e vedere se posso mandarlo come apprendista al mercato del grano. Sarà utile avere un figlio là, dove vendo i miei raccolti, così potrà guardare le bilance e spostare un po' il peso a mio favore». Perciò un giorno disse a Cucù: «Adesso vai e di al padre della fidanzata del mio figlio maggiore che ho qualcosa da dirgli e che in ogni caso dovremo bere una coppa di vino insieme, visto che il suo sangue e il mio si mescoleranno nello stesso calice». Allora Cucù andò e tornò dicendo: «Ti vedrà quando desideri, e se puoi andare a bere il vino a mezzogiorno va bene, e se lo desideri verrai invece qui». Ma Wang Lung non voleva che il mercante di città venisse nella sua casa, perché temeva di dover preparare una quantità di cose, e quindi si lavò e indossò la giacca di seta e si mise in cammino attraverso i campi. Andò prima nella via dei ponti, come gli aveva detto Cucù, e si fermò davanti a un portone su cui era scritto il nome Liu. Non che conoscesse la parola, ma indovinò il luogo, due porte alla destra del ponte, e chiese a uno che passava, e il segno era proprio il segno di Liu. Era un portone dignitoso, fatto semplicemente di legno, e Wang Lung vi batté con il palmo della mano. Si aprì immediatamente ed ecco là una serva che, asciugandosi le mani sul grembiule, gli chiese chi era. E quando lui disse il proprio nome, lei lo fissò e lo condusse nella prima corte dove vivevano gli uomini. Lo portò in una stanza e lo invitò a sedersi, sempre fissandolo, perché sapeva che era il padre del fidanzato della figlia di casa. Poi uscì per annunciarlo al padrone. Wang Lung si guardò attorno con attenzione, si alzò e tastò la stoffa delle tende sulla soglia, poi esaminò il legno del semplice tavolo e fu soddisfatto perché erano una prova di benessere, ma non di una ricchezza eccessiva. Non voleva una nuora ricca e altezzosa e disubbidiente che pretendesse ogni genere di cibo e vestiti e allontanasse il cuore di suo figlio dai suoi genitori. Poi Wang si risedette e attese. All'improvviso ci fu un pesante rumore di passi e un uomo anziano e robusto entrò. Wang Lung alzandosi si inchinò ed entrambi si inchinarono osservandosi senza darlo a vedere e si piacquero, ognuno rispettoso dell'altro per quel che era, un uomo di valore e prospero. Poi si sedettero insieme e bevvero il vino caldo che la serva aveva versato loro e parlarono lentamente di questo e di quello, di raccolti e prezzi e di quale sarebbe stato il prezzo del riso quell'anno se i raccolti fossero stati buoni. E alla fine Wang Lung disse: «Bene, sono venuto per una cosa. Se però non lo vuoi, parliamo pure d'altro. Ma se ti serve un servo nel tuo grande mercato, c'è il mio secondo figlio ed è un ragazzo sveglio. Ma se non ti serve, parliamo di altre cose». Allora il mercante disse molto bonariamente: «Sì, ho bisogno di un ragazzo sveglio se sa leggere e scrivere». E Wang Lung rispose orgoglioso: «I miei figli sono buoni letterati, tutti e due, e ognuno di loro può dire quando un carattere è scritto sbagliato, e se è giusto il radicale del legno o dell'acqua». «Questo è un bene», disse Liu, «fallo venire quando vuole, e il suo compenso all'inizio sarà solo il cibo, fin quando non avrà imparato gli affari. E poi dopo un anno, se va bene, potrà avere un pezzo d'argento alla fine di ogni luna e tre pezzi dopo 3 anni. Dopodiché non sarà più un apprendista, ma potrà affermarsi nel mestiere secondo le sue capacità. E oltre a questo compenso c'è ogni somma che sarà in grado di ottenere da compratori e acquirenti. E se sarà capace di averla non gli dirò niente. E siccome le nostre due famiglie sono unite, non chiedo niente come garanzia per il suo arrivo. Allora Wang Lung si alzò soddisfatto, rise e disse: Adesso che siamo amici, non avresti un figlio per la mia seconda figlia? A quel punto il mercante scoppiò in una grande risata perché era grasso e ben nutrito e disse: Ho un secondo figlio di 10 anni che non ho ancora fidanzato. Quanti anni ha la bambina? Wang Lung rise nuovamente e rispose: Deve compiere 10 anni ed è un bel fiore. Allora i due uomini risero insieme e il mercante disse: Vogliamo legarci con una doppia fune? Allora Wang Lung non parlò più perché non era una cosa che si potesse discutere faccia a faccia oltre quel punto. Ma dopo essersi inchinato e allontanato soddisfatto, si disse: La cosa si può fare. E guardò la figlia piccola quando tornò a casa. Ed era una bella bambina e sua madre le aveva fasciato bene i piedi, tanto che si aggirava con piccoli passi graziosi. Ma quando Wang Lung la guardò da vicino, vide i segni del pianto sulle sue guance e il viso era un po' troppo pallido e serio per i suoi anni. Allora le prese la manina e avvicinandola a sé disse: Perché hai pianto? Lei abbassò la testa e giocherellò con un bottone sulla giacca e disse timidamente, quasi mormorando: Perché mia madre mi mette una pezza attorno ai piedi e ogni giorno è più stretta e di notte non riesco a dormire. Ma non ti ho sentito piangere, disse stupito. No, disse lei con semplicità. Mia madre mi ha detto di non piangere forte perché tu sei troppo gentile e debole per sopportare il male e potresti dire di lasciarmi come sono. E allora mio marito non mi amerebbe così come tu non ami lei. Disse questo semplicemente, alla maniera con cui un bambino recita una fiaba. E sentendolo, Wang Lung sentì una fitta simile a una coltellata, perché Olan aveva detto alla bambina che lui non amava la donna che era sua madre. E in fretta disse: Beh, oggi ho sentito parlare di un bel marito per te, e vedremo se Cucù può organizzare la cosa. Allora la bambina sorrise e abbassò la testa, improvvisamente ragazza e non più bambina. E quella stessa sera, Wang Lung, quando fu nella corte interna, disse a Cucù: Vai a vedere se si può fare. Ma quella notte dormì irrequieto accanto al loto. Si svegliò e finì per pensare alla propria vita e a come Aulan fosse stata la prima donna che aveva conosciuto e a come gli fosse rimasta fedele accanto, servendolo fedelmente. E pensò alle parole della bambina e si sentì triste perché, nonostante la sua ottusità, Aulan aveva visto la verità dentro di lui. Nei giorni immediatamente seguenti a quello, Wang Lung mandò il suo secondo figlio in città e firmò le carte per il fidanzamento della seconda figlia e venne decisa la dote e furono stabiliti i regali e i gioielli per il giorno del suo matrimonio. Poi Wang Lung si riposò e disse a suo cuore: Bene, e adesso i miei figli sono tutti sistemati e la mia povera scioccherella non può fare altro che starsene seduta al sole con il suo pezzo di tela. E il bambino più piccolo lo terrò per la terra. Lui non andrà a scuola, perché due sanno già leggere ed è abbastanza. Era orgoglioso perché aveva tre figli maschi. Il primo era un letterato, il secondo un mercante e il terzo un contadino. Era soddisfatto e smise di pensare ai suoi figli, ma che lo volesse o no, gli girava nella mente il pensiero della donna che glieli aveva partoriti. Per la prima volta, nei tanti anni che aveva trascorso con lei, Wang Lung cominciò a pensare a Olan. Persino all'inizio, quando era appena arrivata, non aveva pensato a lei in quanto persona, ma solo in quanto donna e la prima che aveva conosciuto, e gli sembrava che tra una cosa e l'altra fosse stato molto impegnato, senza tempo da perdere, e solo adesso che i suoi figli erano sistemati e i campi curati e tranquilli in attesa dell'inverno. E adesso che la sua vita con Lotto era regolata e lei sottomessa a lui dopo che l'aveva picchiata, adesso gli sembrò di avere tempo per pensare a quello che voleva. E pensò a Olan. La guardò, questa volta non perché era una donna e non perché era brutta e magra e gialla di pelle, la guardò invece con uno strano rimorso e vide che era diventata sottile e la sua pelle era appassita e gialla. Era sempre stata una donna scura, la pelle rossastra e bruna quando lavorava nei campi, ma da molti anni non andava più nei campi se non forse all'epoca del raccolto, e da 2 anni e più nemmeno questo perché a lui non piaceva che andasse. per non far dire alla gente: tu sei ricco e tua moglie lavora ancora nei campi. Eppure non aveva pensato al motivo per cui lei alla fine aveva accettato di stare a casa e si muoveva intorno lentamente, sempre più lentamente. E a pensarci gli venne ora in mente che a volte al mattino la sentiva gemere quando si alzava dal suo letto e quando si piegava per alimentare la stufa. E solo quando chiedeva: beh, cosa c'è? Lei smetteva all'improvviso. Adesso, guardando lei e lo strano gonfiore sul suo corpo, fu preso dal rimorso. Anche se capiva perché, e si mise ad argomentare con se stesso: beh, non è colpa mia se non l'ho amata come si ama una concubina, perché è una cosa che gli uomini non fanno. E per consolarsi si disse: non l'ho picchiata e le ho dato argento quando me l'ha chiesto. Ma non riusciva a dimenticare le parole della bambina, che senza capirne il motivo lo pungevano, perché se esaminava la questione riteneva di essere stato un buon marito con lei, migliore della maggior parte. Poiché non riusciva a liberarsi dal proprio disagio verso di lei, continuava a guardarla quando gli portava da mangiare o girava intorno, e una volta che lei si era chinata per spazzare il pavimento di mattoni, un giorno dopo aver mangiato, Wang Lung vide il suo viso farsi grigio per qualche dolore interno. La vide aprire le labbra e ansimare leggermente, portare poi la mano sulla pancia, sempre china, come se stesse spazzando. Allora le chiese bruscamente: cos'hai? Ma lei distolse la faccia e rispose mite: è solo il vecchio dolore nelle viscere. Allora la guardò e disse alla bambina piccola: prendi la scopa e spazza il pavimento, perché tua madre è malata. E Aulan disse più gentilmente di quanto le avesse parlato ormai da tanti anni: vai a sdraiarti sul tuo letto e dirò alla bambina di portarti dell'acqua calda, non alzarti. Lei ubbidì lentamente, senza rispondere. Entrò nella sua stanza e lui la sentì trascinarsi. Poi si distese e cominciò a emettere lievi gemiti. Rimase ad ascoltarla gemere fin quando non ne poté più, si alzò e andò in città a chiedere dove fosse la bottega di un medico. Ne trovò una che gli era stata raccomandata da un impiegato nel mercato del grano, dove si trovava ora il suo secondo figlio. E ci andò. Il medico sedeva oziosamente accanto a una teiera. Era un vecchio con una lunga barba grigia e occhiali di ottone grossi come occhi di gufo sopra il naso. E indossava una lurida veste grigia con maniche così lunghe da coprirgli completamente le mani. Quando Wang Lung gli disse quali erano i sintomi di sua moglie, l'uomo arricciò le labbra, aprì un cassetto del tavolo davanti al quale era seduto, prese un fagotto avvolto in tela nera e disse: vengo subito. Quando arrivarono, Olan era caduta in un leggero sonno e il sudore le imperlava come rugiada il labbro superiore e la fronte. E vedendolo, il vecchio medico scosse la testa, tese una mano secca e giallognola come quella di una scimmia e le tastò il polso. Dopo averlo tenuto a lungo, scosse di nuovo la testa con espressione grave, dicendo: la milza è ingrossata, il fegato è malato, c'è un sasso nel ventre, grande come la testa di un uomo, lo stomaco è disintegrato, il cuore si muove appena e sicuramente ci sono dentro dei vermi. A quelle parole il cuore di Wang Lung si fermò e, spaventato, gridò rabbiosamente: beh, dalle una medicina o non puoi. Mentre lui parlava, Olan aprì gli occhi e li guardò senza capire, assonnata per il dolore. Poi il vecchio medico disse ancora: è un caso difficile. Se non pretendi una garanzia di guarigione, chiederò come compenso 10 pezzi d'argento e prescriverò una miscela di erbe e un cuore di tigre secco e il dente di un cane. Dovrai bollirli insieme e farle bere il brodo. Ma se desideri una garanzia completa di guarigione, allora sono 500 pezzi d'argento. A quel punto, sentendo le parole 500 pezzi d'argento, Lan uscì improvvisamente dal suo languore e disse debolmente: no, no, la mia vita non vale tanto. Per quei soldi si può comprare un buon appezzamento di terra. Quando Wang Lung la sentì parlare così, fu assalito dal suo vecchio rimorso e le rispose con rabbia: non voglio la morte in casa mia e posso pagare l'argento. Quando il vecchio medico sentì posso pagare, I suoi occhi si accesero di una luce di bramosia. Conosceva però la penale di legge. Se non avesse mantenuto la parola, la donna fosse morta, e quindi disse, sia pure con rimpianto, no. Guardando il bianco dei suoi occhi, capisco che mi sono sbagliato. Devo avere 5.000 pezzi d'argento per garantire la piena guarigione. Allora Wang Lung guardò il medico in silenzio e con la tristezza di chi ha compreso. Non possedeva al mondo così tanti pezzi d'argento, a meno che avesse venduto le sue terre. Ma capì che anche in quel caso non sarebbe servito a niente, perché era come se il medico avesse detto: la donna morirà. Uscì perciò con il medico e gli pagò i 10 pezzi d'argento. E dopo che questo fu uscito, andò nella cucina buia dove Olan aveva passato la maggior parte della vita e dove ora che lei non c'era, nessuno l'avrebbe visto, e rivolse la faccia verso la parete annerita e pianse. 26. Ma la vita nel corpo di Olan non morì tutta d'un colpo. Aveva appena superato la metà degli anni del suo cammino, e la vita non era pronta a lasciare facilmente il suo corpo, tanto che trascorse diversi mesi sul letto di morte. Giacque morente durante i lunghi mesi dell'inverno. E per la prima volta Wang Lung e i suoi figli capirono cosa avesse significato lei per la casa e come avesse dato a tutti loro il benessere, e loro non se ne fossero mai resi conto. Sembrava ora che nessuno sapesse come accendere l'erba e mantenerla accesa nella stufa, e nessuno sapesse come girare un pesce nel calderone senza romperlo o bruciarlo completamente su un lato prima che l'altro fosse cotto, e nessuno sapesse cosa fosse meglio per friggere una certa verdura, se olio di sesamo o di soia. La sporcizia delle briciole del cibo buttato a terra restava sotto il tavolo e nessuno spazzava il pavimento, a meno che Wang Lung non sopportasse più l'odore e chiamasse un cane dalla corte per fargliela pulire con la lingua, o gridasse alla bambina più piccola di raccoglierla e buttarla fuori. Il ragazzino più piccolo faceva di tutto per sostituire sua madre nell'accudire il nonno, che era incapace di tutto ormai, come un bambino piccolo. E Wang Lung non riusciva a far capire al vecchio come mai Olan non venisse più a portargli il tè e l'acqua calda e ad aiutarlo a coricarsi e ad alzarsi, ed era irritabile perché la chiamava e lei non arrivava, tanto che gettava a terra la sua ciotola di tè come un bambino ostinato. Alla fine Wang Lung lo condusse nella stanza di Olan e gli mostrò il letto dove era sdraiata, e il vecchio guardò con i suoi occhi semiciechi e velati. E piangendo si mise a borbottare perché aveva visto vagamente che qualcosa non andava. Solo la povera scioccherella non capiva niente e sorrideva rigirando il suo pezzetto di stoffa. Ma qualcuno doveva pensare a portarla a letto la sera e a darle da mangiare, a sistemarla al sole durante il giorno e a portarla al chiuso se pioveva. Uno di loro doveva ricordare di fare tutto questo. Ma persino Wang Lung lo dimenticava. E una volta la lasciarono fuori per una notte intera, e il mattino dopo, all'alba, la povera infelice tremava e piangeva. Wang Lung si arrabbiò e inveì contro il figlio e la figlia perché avevano dimenticato la poverina che era la loro sorella. Poi capì che erano solo bambini che cercavano di prendere il posto della mamma senza riuscirci, e si trattenne e badò lui alla povera figlia al mattino e alla sera. Se pioveva o nevicava o se soffiava un aspro vento, lui la faceva entrare e sedere sulle ceneri calde che cadevano dalla stufa della cucina. Durante i mesi bui dell'inverno, mentre Olan giaceva sul letto di morte, Wang Lung non si interessò affatto alla campagna. Affidò i lavori invernali e i braccianti alla direzione di Ching, il quale operò fedelmente, e alla sera e alla mattina andava alla porta della stanza di Olan e 2 volte al giorno chiedeva, quindi, sussurrando con un fil di voce, come stesse. Alla fine Wang Lung non riuscì più a sopportarlo, perché ogni giorno e ogni sera poteva dirgli soltanto: «Oggi ha preso un po' di brodo di pollo» o «Oggi ha mangiato un po' di pappa di riso». Ordinò quindi a Ching di non chiedere più niente, ma di svolgere bene il lavoro, e sarebbe stato abbastanza. Durante tutto il freddo e buio inverno, Wang Lung sedette spesso vicino al letto di Olan, e se lei sentiva freddo, accendeva un braciere di terracotta alimentato a carbone e lo metteva accanto al suo letto perché la scaldasse, e ogni volta lei mormorava debolmente. Bene, ma costa troppo. Finché un giorno, dopo che ebbe detto così, Wang Lung non resistette più ed esplose. Non posso più sentirlo. Venderei tutte le mie terre se questo potesse guarirti. A quelle parole, lei sorrise e sussurrò, respirando a fatica. No, non te lo permetterei, perché devo morire, prima o poi, comunque. Ma la campagna rimane anche dopo di me. Ma lui non voleva parlare della sua morte e si alzava e usciva quando lei la nominava. Tuttavia, poiché sapeva che sarebbe morta e che quello era il suo dovere, un giorno andò in città, nella bottega di un costruttore di bare, e guardò ogni bara lì, pronta per essere comprata, e ne scelse una bella, nera, fatta di legno duro e pesante. Allora il falegname, aspettando che lui scegliesse, smaliziato, disse: «Se ne prendi due, il prezzo è un terzo in meno. E perché non ne compri una per te, così sai di essere a posto?» «No, per me lo faranno i miei figli», rispose Wang Lung. E poi pensò a suo padre e al fatto che non aveva ancora una bara per il vecchio. Il pensiero lo colpì e disse: «Ma c'è il mio vecchio padre! E un giorno non lontano morirà, debole com'è, sulle sue gambe, sordo e mezzo cieco, quindi ne prendo due». E l'uomo promise di ridipingere di un buon nero le bare e di mandarle a casa di Wang Lung. Così Wang Lung disse a Olan quello che aveva fatto e lei fu contenta che l'avesse fatto per lei e avesse provveduto per bene alla sua morte. Passava così molte ore al giorno seduto accanto a lei e non parlavano molto perché lei era debole e inoltre non avevano mai avuto tante cose da dirsi. Spesso lei dimenticava dov'era mentre lui sedeva là tranquillo e in silenzio, e a volte mormorava della sua infanzia, e per la prima volta Wang Lung vide nel suo cuore, anche se persino ora soltanto attraverso brevi parole come queste. «Porterò le carni solo fino alla porta, lo so bene di essere brutta e che non devo mostrarmi al grande signore». E poi diceva ancora ansimante: «Non picchiarmi, non mangerò più dal piatto». E continuava a dire: «Mio padre, mia madre, mio padre, mia madre!» E sempre di nuovo: «Lo so bene di essere brutta e che non posso essere amata!» Wang Lung non sopportò di sentirle dire queste parole, le prese la mano e la carezzò, una mano grande e dura, rigida, come se fosse già morta. E si stupì e si rattristò con se stesso, soprattutto perché quel che lei diceva era vero. E persino nel momento in cui prendeva la sua mano, col desiderio sincero che sentisse la sua tenerezza verso di lei, si vergognava perché non riusciva a provarne affatto. Il suo cuore non si scioglieva come Loto riusciva a ottenere col solo sporgere le labbra. Nel prendere quella mano rigida e morente non riusciva ad amarla, e persino quella pietà era guastata da un senso di repulsione nei suoi confronti. E per questo motivo fu più gentile con lei e le comprò cibi speciali, minestre delicate fatte di pesce bianco e cuori di cavoli novelli. Non trovava nemmeno piacere in Loto, perché quando andava da lei per distrarre la propria mente dalla disperazione per quella lunga agonia della morte, non riusciva a dimenticare Olan e se stringeva Loto subito dopo la lasciava andare, a causa di Olan.